Buon pomeriggio a tutti. Marta Cagnola si è dovuta prendere un sabato di pausa, ma tornerà al più presto con noi. Noi le mandiamo naturalmente un bacio. Quindi c'è questa indegna sostituzione oggi al comando di questo ricchissimo programma del sabato pomeriggio, ma naturalmente cercheremo di farvi compagnia nel miglior modo possibile. Tra l'altro Cristian Goldoni che ci aiuta a realizzare dal punto di vista, diciamo, come autore un po' tutto il programma, ha scherzato dicendo: naturale che scegliesse Rotè, sei marchigiana, il sabato del villaggio la cosa più vicina a Leopardi che si potesse fare era quella. Ma insomma, bando alle ciance, intanto di nuovo buon pomeriggio. La puntata di oggi è incredibilmente ricca, parleremo in apertura di privacy e social network, e quindi quanto dobbiamo spingerci nell'utilizzo di questi nuovi mezzi, naturalmente per comunicare con tutti i nostri amici. Qualche volta qualcuno finisce anche in qualche guaio. Poi parleremo a lungo di musica, avremo un ospite d'eccezione, Amy Schilla, il rapper più amato del momento, e poi parleremo chiaramente dei film da vedere nel fine settimana, dei libri da leggere in questi giorni, tutte le uscite più recenti. E poi parleremo naturalmente anche di consumi, parleremo di musica e solidarietà e di serie televisive, per cui ce n'è per tutti i gusti. 349-238-6666 è il numero che potete utilizzare per contattarci. Come dice sempre Marta, io vi tengo compagnia, ma anche voi tenetemi compagnia. Anzi, visto che sono, come dicevo, la conduttrice indegna oggi al timone di questo programma, aiutatemi voi naturalmente con le vostre domande ai nostri ospiti, che saranno moltissimi. Potete utilizzare chiaramente anche Twitter, che è il social invece preferito dalla nostra Marta Cagnola. Io vi ricordo anche che dalle 17 alle 18 ci sarà anche il consueto appuntamento con RadioTube, oggi con Daniele Bellasio, per tutta l'attualità dalla rete e della rete. Adesso direi di cominciare subito con il primo tema di oggi, come preannunciato: social network e privacy. Credo di aver avuto una buona idea. Cazzo, mi piace, è veramente figo. La gente vuole andare su internet e curiosare sugli amici, allora facciamo un sito che dia a tutti quello che vogliono. Prendere l'intera esperienza sociale del college e metterla in rete. Il sito ebbe 2.200 contatti in sole 2 ore. 22.000. Quello che ha fatto di Facebook. Le nostre groupies. Sono Sean Parker. Sean Parker ha fondato Napster. Molto piacere. $1 milione non è fico. Sai cos'è fico? Tu? $1 miliardo. Non sappiamo cosa può essere, non sappiamo cosa diventerà, sappiamo solo che è fico. 1 milione! È fatta. Perché non vogliono te, vogliono la tua idea. Tu credi di conoscermi, vero? Ho letto parecchio. Sai quanto ho letto io su di te? Paura che rimarrai indietro. Va più veloce di che voleva dire, rimarrai indietro. Fai il piano di avvocati, io tornerò qua per prendermi tutto. Mi darai un biglietto da visita dove c'è scritto: sono l'amministratore delegato, stronzo. Ed è questo che ti auguro. Accuse di violazione delle norme di sicurezza, violazione della privacy. Riguardo alle accuse di violazione della sicurezza, credo di meritare un ringraziamento da parte di questo consiglio. Non ho ben capito. E quale parte? Ce la siamo presa comoda, l'abbiamo fatto ascoltare tutto quanto. Naturalmente non abbiamo ancora anticipato i consigli per i film da vedere con Franco D'Assisi, ma abbiamo riproposto il trailer di un film che ha avuto un grande successo. Allora, vediamo se se lo ricorda di quale film stiamo parlando Enrico Pagliarini. The Social Network. Altro che se se lo ricorda. Senza preparazione, però l'ho visto in ritardo. Anch'io. Cioè l'ho visto mesi dopo. Lo so, e vabbè, d'altronde non possiamo fare tutto. No, abbiamo altri argomenti dei buongiorno. Quali... Buongiorno intanto e buon sabato, caro Enrico. Allora, perché abbiamo proposto il trailer di The Social Network, quindi la storia della creazione di Faccia Libro di Facebook, è proprio perché ancora una volta l'utilizzo improprio del social network è stato un grande tema che ha interessato un po' i giornali negli ultimi giorni. Questa notizia ci è stata scaricata addosso in poco tempo, questi social network, perché quello che diremo fra poco vale non solo per Facebook, sul quale, attenzione, ci sono 25 milioni di italiani, quindi le persone che usano la rete sono poco di più, dipende dalle ricerche, comunque diciamo che AudiWeb ci chi dice usa la rete 27, ha un profilo 28, eccetera, eccetera, quindi quasi tutti hanno. Poi, dopodiché bisognerebbe andare a vedere, e ci sono i dati che ci dicono anche questo, se uno lo usa tutti i giorni, però insomma la popolazione è gente che va in piazza, 60 milioni, quindi sì, togli i bambini, togli magari le persone un po' più anziane. Praticamente tutti, almeno una volta nella vita, ci siamo cimentati nell'utilizzo del social network. Allora, ribadisco, per quale motivo abbiamo scelto di cominciare con questo tema? Perché ha suscitato grande attenzione questa notizia che è rimbalzata da Perugia, dove, che cosa è successo? Una donna, una dipendente di una grande multinazionale, comunque un gruppo privato, praticamente ha messo su Facebook, ha postato, anzi, come si dice in questi casi, un commento non tanto carino nei confronti di una superiore, al punto che si è guadagnata il licenziamento. Poi tutto sembra essere rientrato, è stata reintegrata nel suo posto di lavoro. Non è questo ciò di cui dobbiamo parlare oggi, ma il tema è se ha fatto bene, se ha fatto male e se effettivamente poi l'azienda ha avuto anche ragione nel prendere questa decisione così dirompente nei suoi confronti. E questa vicenda certamente allerta un po' tutti, no, Enrico, all'utilizzo corretto. Aggiungo anche nelle ricerche che ho fatto in questi giorni che notizia di pochi giorni fa, un dipendente di un'azienda in Sardegna è stato licenziato. In questo caso pare che il licenziamento ci sia proprio per avere scritto, è stato più pesante nel commento, perché nel caso di Perugia, che so che tu hai scandagliato molto bene, il commento era sibillino. Bisognerebbe capire un po' le dinamiche dell'azienda per capire, perché ci sono delle allusioni, dei riferimenti che possono essere ricondotti a una persona, però effettivamente la cosa può essere interpretata in vario modo. Sono andato a vedere proprio la pagina di Marilena Petruccioli. Facciamo il nome perché era tutto, su tutti i giornali. È tutto pubblico, cioè è ancora lì. Infatti questo è un altro aspetto che vorremmo sottolineare agli ascoltatori: tutto quello che scriviamo rimane lì, ma non rimane lì dopo una settimana. Rimane. Io oggi, giusto così per test, sono andato a vedere dei post di alcuni miei amici del 2008. Uno magari dal 2008 ad oggi cambia idea su certe cose. Vi siete litigati e magari lì c'era una cosa carina, oggi dice delle cose brutte nei tuoi confronti. Però do subito un consiglio, poi presentiamo anche il nostro ospite, il tecnico, tra poco. Un consiglio è: ogni tanto prendetevi un po' di tempo per andare magari a vedere quello che avete scritto qualche anno fa. E poi potreste anche decidere di cancellarlo, perché si può cancellare. Non è che ci fa lo stesso effetto delle fotografie, poi che ci vedevamo più brutti, più magri, più belli. Però le fotografie ce le abbiamo in casa nostra, nel cassetto sul nostro computer. No, guarda, le postiamo tutte quante, anche quelle. Io mica tanto, Lo so, non vuoi far vedere quanto sei bello e simpatico. Sentiamo invece come si comporta con Facebook e cosa ne pensa di tutto questo dibattito Luca Bolognini, avvocato delle nuove tecnologie e delle comunicazioni, ma soprattutto presidente dell'Istituto Italiano per la privacy e la valorizzazione dei dati. Avvocato, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Allora, il commento su questa vicenda, intanto, se l'azienda, che poi ha fatto rientrare sostanzialmente in un atto, anche in un gesto, un po' di responsabilità, ha fatto rientrare questa emergenza e questo licenziamento, ma aveva fatto bene secondo lei? Dipende. Non entro nel merito specifico di questo caso, ma dipende dai casi, nel senso che se il lavoratore usa Facebook, usa un social per esprimere la sua opinione sul mondo, su fatti della vita che non c'entrano nulla con l'attività lavorativa e comunque con la propria azienda, è libero, liberissimo di farlo, di esprimere opinioni politiche, sindacali, ma non solo. Invece, naturalmente, se si usa il Facebook o qualcos'altro di simile per parlare male del proprio datore di lavoro, del proprio superiore o della propria azienda, allora si può rischiare indubbiamente, legittimamente, una sanzione disciplinare. Questo è abbastanza consolidato. Quello che non si può fare, quello che i datori di lavoro non possono fare, è invece andare a scandagliare le nostre opinioni, appunto i nostri post, i nostri aggiornamenti di stato, per vedere come la pensiamo su cose che non c'entrano con l'attività aziendale. Il caso di Perugia, come diceva Enrico Pagliarini, era però più sibillino, meno chiaro, meno individuabile il soggetto a cui questa persona si riferiva. Sì, perché commento. Parlava di un capo reparto di una certa azienda per aver usato il termine collare addirittura, insomma, poi è chiaro che il diretto interessato ha capito che si parlasse appunto di lei o di lui in quel caso, però non aveva utilizzato effettivamente dei riferimenti precisi, no? Tuttavia penso che sia interessante, e approfittiamo della presenza di Bolognini, sottolineare un fatto che sta succedendo in questi anni. Dicevo prima, i social network sono arrivati all'improvviso, quasi all'improvviso, in poco tempo nelle nostre vite, e forse non tutti hanno capito che la diffamazione, cosa che prima era una cosa, diciamo, era una situazione quasi d'élite, magari lo potevano fare i giornalisti o altre persone, è diventata alla portata di tutti. Se uno va a vedere quello che la gente scrive sui social network, non so, oppure che ne so, i commenti sui video di YouTube, ma ci sono cose incredibili. Penso che non tutte le persone abbiano idea delle possibili conseguenze. Io qualche commento sgradevole su di me l'ho anche trovato su internet, ma magari ce ne sono anche in circolazione di commenti che non conosciamo, di cui non siamo venuti a conoscere. Che potrebbero essere anche papabili per un'eventuale accusa di diffamazione, ma noi non lo sapremo mai, proprio perché tra l'altro la circolazione anche di questa informazione così intensa che è impossibile seguire tutto. Bolognini, che ne dice? Io credo che questo meriti una duplice riflessione. Da un lato questi strumenti sono formidabili, li usiamo tutti, ci hanno dato un potere di espressione, di confronto con il prossimo impensabile fino a pochi anni fa, e il confronto con il prossimo nei social è anche qualcosa di molto bello. Teniamo presente che se c'è un dubbio che abbiamo noi che ci occupiamo di questi temi, per esempio con riferimento alla pubblicità comportamentale, alla profilazione, è anzi che su internet tendiamo a vederci proposti sempre contenuti uguali a ciò che già desideriamo e preferiamo, e questo è un limite per la evoluzione, per lo sviluppo, non confrontarci con l'altro da sé, con il diverso. Il social invece ci mette a confronto con idee di altri, quindi questo è un aspetto positivo. Chiaro, ci mette anche in mano la possibilità di fare del male agli altri, generando contenuti, commenti, critiche. In alcuni casi le critiche sono più che legittime, perché non dimentichiamoci che c'è un diritto di critica in ognuno di noi, come ognuno di noi è legittimato a esercitare il diritto di cronaca. Il live tweeting durante un evento altro non è che un esercizio di diritto di cronaca. È chiaro che più si va avanti, più quest'arma che sono le condivisioni social di contenuti, di pensieri, può causare dei problemi. Io ogni tanto faccio l'esempio della circolazione stradale per dire che i tamponamenti digitali, le diffamazioni, ma non solo, saranno sempre più frequenti, sempre più inevitabili, tanto da far pensare a qualcuno, sorridendo ma neanche troppo, addirittura alla ipotesi di un'assicurazione obbligatoria, un po' come nell'RC auto per responsabilità civile da danni causati nell'uso del mezzo. In questo caso il mezzo è virtuale. Lei ha dato un suggerimento all'industria delle assicurazioni, che sono certa che adesso ti è piaciuta? Sì, mi piace. Una tutela, quanto potrebbe costare questa polizza? Io mi trasformo subito nella donna dei denari della settimana. Oppure faccio un'ipotesi io più tecnologica, che nel futuro l'intelligenza delle macchie, dei software, ti suggerisca che magari un post non va fatto. Tu sei lì che scrivi e la macchina dice: guarda che questo forse un non po' è come Hair, il famoso film, invece di parlare di sentimenti, un istruttore, insomma, che ti segue costantemente per dirti anche qual è il miglior comportamento da utilizzare con il social network. Tra l'altro, Bolognini, però stavo pensando adesso, fra un po' abbiamo già la nostra prima pausa con il traffico, stavo pensando un po' al fatto che il social dà in ogni caso la possibilità di protezione, di erigere delle barriere, no? Di impostare determinate opzioni di privacy. Mi chiedo però se non sia un controsenso, perché se stai sul social devi sapere che comunque sei un po' a disposizione, come dire, della collettività, ci sono determinate regole. Dall'altro si riescono anche a violare abbastanza facilmente queste impostazioni di privacy. Ma sì, insomma, comunque la ratio del social è quella di dialogare, di farsi vedere, di confrontarsi, quindi fanno un po' sorridere le impostazioni di privacy totale, di privacy massima quando si è in un social network. A quel punto converrebbe probabilmente non iscriversi nemmeno. C'è una cosa curiosa comunque: prima Enrico Pagliarini citava citava questa possibilità poi di ritrovarsi dopo anche anni, ritrovare opinioni espresse nei social anche dopo anni. Voi sapete che in Europa si sta discutendo di diritto all'oblio, il diritto di essere dimenticati, riuscire a farsi togliere dal dal web. C'è una sentenza no, della Corte Europea, se non mi però quello è solo su un motore di ricerca. È una sentenza interessante, però ecco, è molto interessante il fatto che da un lato ci esponiamo moltissimo, tutti, dall'altro sta diventando un desiderio in prospettiva quello di poter essere dimenticati, mentre in passato, insomma nella storia, la damnatio memoriae, cioè l'essere dimenticati, è sempre stata vista come una punizione. Una dannazione. Certo. Diciamo che, come dire, il social network a volte ci fa fare una buffata di notorietà contro ogni nostro volere e previsione, che forse appunto proprio per questo magari in seguito si manifesta questo desiderio del diritto all'oblio. Avvocato Bolognini, potremmo continuare ancora per tutto il pomeriggio. Io ho tantissime cose ancora da raccontare, ma ci torneremo su questi argomenti, magari in altri contenitori nel corso della settimana. Intanto la ringrazio e le auguro buon weekend. Grazie, buon weekend. Presto, mille. Altri contenitori che si chiamano tipo Cuore Denari. Ma anche 2024, perché certo, so che sì, tu l'avvocato Bolognini lo hai ospitato sì, spesso. Molto bravo. Molto bravo. Molto bravo. Il sabato del villaggio. Non riusciamo a sentire il ritornello. Sostanzialmente questa è Baby You're a Rich Man, una canzone dei Beatles che è stata utilizzata come colonna sonora di The Social Network. Hai visto i Beatles come erano avanti? Sì. Vuoi guardarti i titoli di coda e la risenti? Bravo. Hai visto? Anche io ogni tanto qualche cosina su un argomento collaterale e denari conosco. Dico un'ultima cosa su Facebook. Sì, che hai la penna di Facebook in mano, tu sei veramente un uomo per tutte le stagioni. Ho tutte le penne di tutti, praticamente. Alle conferenze stampa già sempre la penna. Ce le danno, infatti. Perché è vero che siamo digitali, ma un taccuino con la penna ancora per ci un piace, ci ancora piace. Ci piace. No, una cosa che probabilmente in pochi fanno è andare nelle impostazioni di privacy di Facebook, ma anche degli altri social network, e andare a vedere che cosa ci propone, quali sono le possibilità. Ad esempio, ne cito una: chi può vedere i nostri post? Noi scriviamo delle cose e uno può decidere che vedano tutti, anche quelli che non sono nostri amici, oppure uno può decidere che li vedano quello che io scrivo solo quelli che sono nella mia ma cerchia. Ma ha senso, no? Secondo te il tema secondo Beh, però, me è quello, certo, se tu sei lì cosa vuol vero, dire che però, accetti l'amicizia di una persona e poi ti devi lambiccare il cervello per impostare una privacy per evitare che una persona veda un commento. Hai ragione, non però ha senso. Potresti decidere che vedano solo i tuoi amici, certo, non tutti, sì, tutti i disconosciuti. Quello senz'altro, però, quella, molti quella invece lasciano libero tutto, tant'è che io stamattina sono andato a vedere i post di questa signora che lavora alla va bene. Senti, vuoi parlare adesso? Lasciamo il social network, anche se in realtà c'è la nostra astronauta preferita che fa un grandissimo uso di Twitter, la Samantha. Sì, Astro Samantha si Astro chiama Samantha, su Twitter. La Cristoforetti che è partita, sta no, partendo. Parte domani parte sera. Parte domani sera, 22:01. C'è anche sulla prima pagina del Corriere, quindi non sono stata attenta. E insomma ci racconterà, farà un live tweeting di tutto ciò che vedrà nello spazio. Naturalmente come hanno fatto anche gli altri, Luca Parmitano che tu hai conosciuto. Sì, devo dire che ho incontrato sia la Cristoforetti che Parmitano la prima volta quando sono stati nominati, insomma scelti come astronauti italiani per le prossime missioni. Devo dire che da quando esiste Twitter gli astronauti fanno un grande uso di Twitter. Ma perché? Beh, perché hanno anche un po' di tempo libero, poverini lassù. Esatto, tra un esperimento e l'altro, tra una mangiata con cose strane. Sì, e le lasagne che ho mangiato, io quelle di Parmitano, una manutenzione, spaziali. Esatto. Hanno insomma la possibilità di, visto che c'è internet anche sulla Stazione Spaziale Internazionale, di usare Twitter. Parmitano ha fatto tantissime fotografie ed era molto bello vedere queste fotografie fatte da lui e poi messe direttamente su Twitter. Vedremo cosa fa Samantha Cristoforetti, che ultimamente, ma è giusto che sia così, sta usando un po' meno, diciamo Twitter lo stanno usando quelli dell'agenzia spaziale, tutti quelli che stanno attorno. Adesso lei si sta preparando in questi giorni, ovviamente non è che ha molto tempo, però io le ho scritto un messaggio privato. Dai. E mi ha risposto. Hai visto? E ho questo detto, denota la differenza no, delle persone, l'attenzione per dei giornalisti è molto simpatici. Gentile, ma devo dire che abbiamo degli astronauti in generale anche assolutamente molto in gamba. Noi abbiamo avuto avuto ospite a Cuore Denari Paolo Nespoli, e devo dirti sì, che come persone sono assolutamente eccezionali, uomini veramente di un carisma incredibile. Senti, ci manca un minuto e mezzo prima di passare al prossimo tema, perché tra tutto questo parlare di social network mi è venuta voglia di andare al cinema, lo facciamo dopo. Qualche suggerimento, cosa, esatto, sì, come fai sempre, consigli dunque, pratici. Visto che parliamo spesso di social network, anche oggi abbiamo parlato nelle ultime settimane di WhatsApp, sì, che è sulla bocca di tutti, sugli smartphone di molti, cito invece Induna, che è il social network di Tiscali, o meglio, social network, il sistema di messaggistica in tempo reale, è un simile WhatsApp, ma è meglio. Fa delle cose in più. Così proprio? Sì, ad esempio questa settimana è stata lanciata la novità, la nuova versione, che ci permette di fare le chiamate di gruppo. Quindi se vogliamo fare una conference call, come si dice tra gli addetti ai lavori, vogliamo fare una, che ne so, ci mettiamo d'accordo dove andare questa sera, facciamo una chiamata di gruppo, la possiamo fare con Induna. È un termine sardo, è l'unica applicazione di questo genere italiana, fatta tutta in Italia, e mi sembra un buon prodotto. Facciamo una cosa, alla fine della trasmissione alle 17 mettiamo su, andiamo io e te a chiamare Marta e vediamo se ci ha promosso oggi alla conduzione del Sabato del Villaggio. Molto che bene, dici? Così molto la chiamiamo. Bene, abbiamo terminato con i nostri suggerimenti. Ciao. 2024, non ci anticipi nulla? Abbiamo parlato di Samantha Cristoforetti, sì, abbiamo parlato con l'amministratore delegato di Microsoft, abbiamo parlato di traffico, di applicazioni per il traffico, di tante altre cose. Mm-hmm. Hai tempo per venire al cinema con me? Sì, se ci mettiamo, sì. Andiamo allora con Franco D'Assisti, via. Via. Qua naturalmente l'indegna presentatrice di questo pomeriggio con gli ascoltatori di Radio 24 deve essere adesso necessariamente accompagnata al cinema, e quindi mi prende per mano Franco D'Assisti, naturalmente, eccoci. Ciao, qua. Ciao, ciao a te, ciao a tutti. Indegna, buon di pomeriggio. Cosa, ma allora, beh, degnissimo. Sì, quantomeno se non altro una degna come dire spettatrice qualche volta, ecco, quando ho tempo di sala cinematografica. Andiamo un po' a vedere cosa ci aspetta nel weekend. Il programma è ricco, molto e ricco. L'attesa è particolarmente concentrato su un film che poi magari consiglieremo anche per le famiglie. Cominciamo subito a toglierci il sassolino dalla scarpa di Hunger Games. Ma sì, guarda, perché era il film sicuramente più atteso di questa parte della stagione, anche dagli esercenti, perché chiaramente è un film campione che ha potenziali commerciali clamorosi. Diciamo subito che è un mezzo film, cioè la prima metà di questo capitolo finale della saga di Hunger Games, Il canto della rivolta. Questo è parte 1, ormai purtroppo negli ultimi tempi si è invalso questo meccanismo per cui l'ultimo capitolo te lo divido in due, così fai due volte l'incasso. Però quando lo vedi poi ti rendi conto che alla fine non è finito, perché è un mezzo film. Detto questo, è un film di straordinario spessore, con una Jennifer Lawrence che ancora una volta dimostra di aver avuto la capacità di stare su due binari, cioè di partire da una parte come attrice da film d'autore, pensiamo a Un gelido inverno, pensiamo insomma che chiaramente gli sono valsi anche l'Oscar eccetera, dall'altra parte però anche con la capacità di stare nel film per il grande pubblico. E come interpreta lei questa eroina di Hunger Games? Io francamente in queste saghe popolari non ne ho trovate. È proprio l'attrice del momento, possiamo dire così. Ottimo. Una richiesta particolare che ti faccio io, perché sento che radio e non solo tempestano di trailer sull'arrivo di I toni dell'amore. Beh sì, il tema c'è tutto, sai, si parla ormai quotidianamente nei telegiornali, sui giornali, anche tra di noi, grazie al cielo ormai, di coppie omosessuali, di unioni omosessuali, di matrimoni omosessuali. È un tema che bolle, che è arrivato a compimento, e chiaramente il cinema, come sempre, è molto molto come dire, capace di prendere questi stimoli. I toni dell'amore di questo parla, e lo fa con una delicatezza straordinaria, raccontando una storia ambientata a Manhattan tra due persone che si amano tanto da tanti anni, esatto, da 40 anni, hanno uno 70 anni, l'altro 60, tutto va bene fino a quel momento, amici, parenti, la chiesa cattolica per la quale lavora uno dei due. Quando però loro decidono di sposarsi, cioè di unire e di far uscire allo scoperto quella unione da 40 anni, ebbene lì si spezza tutto, perché il problema è quello di dare visibilità. E questo tema, secondo me, è la chiave vera, tra l'altro con due attori straordinari Alfred Molina e John Lithgow, che sono due volti di quelli che poi li vedi e dici ah sì, questo l'ho visto altre 100 volte, ma anche Marisa Tomei, ricordiamola per esempio in The Wrestler, tanto per stare sui tempi recenti. Quindi un film veramente da guardare, e tra l'altro La Rosa Purpurea, noi fra poco alle 18 saremo in onda con questo film e daremo anche la possibilità al nostro pubblico di andarlo a vedere, avremo un po' di biglietti per il nostro pubblico. Posso competere? Posso gareggiare? Puoi competere? Devo fare qualcosa, devo rispondere a delle domande. Ma guarda, siamo molto buoni, basterà scrivere un SMS, però tu lo scrivi, ti porto io al cinema. Ottimo, grazie. No, tra l'altro stavo riflettendo sempre su questo film che vorrò andare a vedere, anche sul fatto di come attori, anche ad un certo punto della loro carriera, molto in avanti, si riescano molto facilmente a cimentare in ruoli che possono apparire piuttosto scomodi, perché sono bravi, perché sono molto bravi, sono molto molto bravi, hanno tanta esperienza. Questi sono tutti attori che hanno fatto una vagonata di teatro. Hai toccato un tasto giusto, perché il cinema spesso negli ultimi anni ha un po' fatto venire meno i ruoli per chi ha più, diciamo, di 50-55 anni. Pensa anche alle attrici, quante attrici poi dopo faticano se non sono Meryl Streep, voglio dire, certo. E però invece quando c'è questa possibilità, siccome c'è anche un bieco calcolo, cioè il cinema è anche sempre più una questione di anziani, ci sono gli adolescenti, c'è il target adolescenti, c'è il target donne, c'è il target anziani. Sempre più film sono dedicati alla terza età in ogni caso, e quindi questi attori stanno rivivendo una certo. seconda giovinezza, e la interpretano con grandissima sapienza, insomma. L'italiano, scusate se esisto, perché target è allora? Ma l'italiano, scusate se esisto, è per il target delle commedie italiane, cioè target sabato sera. Siamo il regista Riccardo Milani e quello di Benvenuto Presidente, tanto per dire, un film che ha avuto un grande successo recentemente. L'attrice protagonista è Paola Cortellesi, che è un'attrice che a me piace molto perché riesce a dare sempre sfumature e un po' di graffio ai suoi personaggi. Poi dopo la cornice è quella di una commedia italiana tradizionale. Perché Raoul Bova non ce lo citi? Ve lo cito perché c'è, ma perché lui è un po' l'oggetto del desiderio in questo film. Il film lo fa, gli tocca d'altronde, purtroppo, sempre. Che sfortuna, fare questa parte quando sei nato ovunque, così, è veramente esatto. Incredibile. No, voglio dire che il film lo fa Paola Cortellesi un po', però è la storia di una donna. C'è sempre quel substrato sociale, c'è una ragazza super laureata, super master, super tutto, che è stata a Londra, ha lavorato, ha fatto lavori fantastici, scritto, sì. Vuole tanto tanto tornare in Italia, ma quando torna in Italia si mette a cercare lavoretti qua e là, perché il paese è nel punto in cui è, e lì incontrerà questo Raoul Bova bellissimo, se ne innamorerà perdutamente, salvo scoprire che a livello di preferenze sessuali non è esattamente orientato come ecco lei qua. E poi cominciano un po' a giocare anche commedia su questo degli equivoci, ma esattamente, diciamo. Non dobbiamo svelare oltre. Senti, lo sai che Marta mi ha istruito molto bene, mi ha detto ad un certo punto: Franco, devi chiedere il film per andare al cinema con tutta la famiglia, quindi ma guarda, mamma e papà che portano ragazzi. Io infatti sono, temendo moltissimo Marta, sono preparatissimo e ti dico però che sta settimana, non essendoci un'animazione vera e propria, essendoci molto cinema d'autore, anche molto cinema così catastrofista, perché c'è questo film di Final Hours sulle ultime 12 ore della Terra prima della fine del mondo, ecco, non andrei lì con dei bambini, però con dei ragazzi, cioè sopra, diciamo, l'inizio dell'adolescenza, i 13, 14, 15 anni, eccetera. Consiglierei davvero Hunger Games, perché è una favola molto morale, quella di Hunger Games. Certo, è una favola di ribellione, tutto, c'è dentro tutto, però ci sono grandi valori che sono quelli che permeano il film. E secondo me, se avete figli un po' più grandi, dai 14 in su, è un film che si può vedere tutti insieme. La qualità cinematografica è sicura. Adesso mi tolgo un'ultima curiosità che non ha nulla a che fare col cinema. Ma tu quanti film ti guardi al giorno, alla settimana? Beh, al giorno, francamente. Uno al giorno? No, dipende. Leva il medico di turno. Se siamo ai festival, anche 5 o 6 al giorno. Se siamo in tempi di pace, in tempi di pace, cerchiamo di vederne almeno 4-5 la settimana. Ecco, è un duro lavoro, ma qualcuno deve pur fare. Ecco, esatto. Grazie Franco D'Assisi. Grazie a te, ci sentiamo alle 18. Certo. Ciao. Buona ciao, giornata. Ciao. Il sabato del villaggio. Non abbiamo fatto un tuffo nel passato per ritornare alla disco music degli anni Ottanta. Alessandra Tedesco, se avevi avuto questa sensazione, ci piace questo tuffo, però in Egitto lo abbiamo creato ad hoc invece per presentare un grandissimo libro, un grandissimo autore che naturalmente, come dire, si sbizzarrisce sempre un po' nel prendere a spunto per i suoi testi, come no? Questi ambienti lontani da noi. Allora, abbiamo già detto tutto e quasi hanno capito i nostri ascoltatori. Diamo le iniziali, W W.S., vabbè, insomma, Wilbur Smith, uno degli scrittori più venduti nel mondo. Pensa, Deborah, quando mi guardo sempre i dati di vendita, così sì, possono essere un pochino esagerati, però lui ha venduto 122 milioni di copie nel mondo, 23 milioni solo in Italia. Insomma, Wilbur Smith è uno degli scrittori più letti dagli italiani. In ogni casa degli italiani c'è un libro di Wilbur Smith. Purtroppo in ogni casa degli italiani non c'è un libro, nella metà delle case degli italiani, però lì dove c'è il libro, per la famosa media di Trilussa, sostanzialmente qualche famiglia ne ha più di uno di libri di Wilbur Smith. Anche perché lui ne ha scritti 35-37, cioè. Insomma. L'ultimo uscito si intitola Il Dio del Deserto, l'ha pubblicato Longanesi. Ed è il nostro libro della settimana, perché non l'abbiamo ricordato, naturalmente. È il libro della settimana perché è appena uscito in Italia, chiaramente primo in classifica, lo dicevamo prima, gli italiani lo amano tantissimo. Wilbur Smith è considerato un po' il maestro dell'avventura, come giustamente tu dicevi prima, ambienta alcuni dei suoi romanzi nell'Antico Egitto, perché fa diverse saghe. Allora c'è la saga appunto dedicata all'Antico Egitto, e questo Il Dio del Deserto appartiene a quel filone lì. Poi ha fatto la saga della famiglia Courtney, quella dei Ballantyne, insomma ha diversi filoni che segue, tutti comunque segnati dall'avventura. Lui è nato e cresciuto nell'Africa meridionale, però ormai da tanti anni vive a Londra, ma è molto molto legato all'Africa. E adesso come donne andiamo un po' a sognare, perché anche l'aneddoto in cui ci racconta come ha conosciuto la sua giovanissima moglie ha del romantico e non solo. Sì, allora la sua giovanissima moglie è onnipresente, direi, perché ogni volta che mi capita di incontrare Wilbur Smith per un'intervista, in questo caso l'ho incontrato la settimana scorsa a Milano, a Book City, è sempre presente, vigila su di lui alla circa la metà dei suoi anni, e praticamente lui l'ha notata un giorno, ha iniziato un po' a seguirla. Lei è entrata in una libreria, lui proprio lo racconta, Wilbur Smith l'ha raccontato pubblicamente questo episodio, e lei stava comprando un libro di Ken Follett, e lui con magari bella... era I Pilastri della Terra, che mi è piaciuto moltissimo. Ne avevamo parlato tra l'altro qualche settimana fa anche con Marta Cagnola, e lui gli ha detto: ma perché ti compri questo libro? Ma comprati questo, facendole vedere Monsona, che è uno dei libri appunto di Wilbur Smith. Le ha detto: caspita, però è un volume bello grosso, più insomma, che un monzone, è un mattone. Ecco. E lui, giuro, testuali parole che ha detto, tutte le cose più belle sono lunghe. Credo intendesse dire durano tanto, ecco, insomma, durano molto. E con questa direi che possiamo andare a sentire l'intervista. Stiamo a presentarcela con questa questo colpo di scena, con questo coup de théâtre. E sì, perché lui dice sempre, Wilbur Smith, che scrivere è sempre stata la sua ragione di vita. Sentiamolo. Yes, well, I've been doing writing full time for 50 years. In effetti faccio lo scrittore da 50 anni. Quindi questo mestiere è diventato parte della mia vita. E poi tutti i personaggi che ho creato fanno parte della mia esistenza. In particolare il protagonista di quest'ultimo romanzo, Taita, è il saggio del deserto. E abbiamo condiviso ben 5 libri. E poi abbiamo i Courtney e i Ballantyne. Ho creato vari mondi e loro li hanno popolati. L'arco temporale che io abbraccio con i miei libri va dal 2000 avanti Cristo fino all'epoca attuale. Si tratta di un ampio affresco popolato da centinaia di personaggi, e per me è un piacere sia viverli che scriverli. Possiamo dire che Taita è diventato un po' il suo alter ego? Yes, he is one of the characters. Sì, è uno dei personaggi, forse il personaggio a cui mi sento più vicino. Vedo molte parti di me in lui, per esempio il senso dell'umorismo, la visione del mondo, l'intolleranza per il male e l'amore per il bene. Mi dà veramente molto piacere passare del tempo con lui. Ci ritrovate dopo questa bellissima intervista a Wilbur Smith, e naturalmente dobbiamo svelare, anche se solo per 30 secondi, un po' di trama del libro. Un pochino di trama, insomma, il protagonista, come negli altri libri della saga appunto dell'Antico Egitto, è Taita, il saggio, l'avete sentito nominare, anche un consigliere del faraone, deve prendersi cura delle due figlie della regina, di cui lui era stato l'amante spirituale. Beautiful dei vecchi tempi. Si intrecciano come sempre questioni sentimentali, affettive, passioni, politica e potere. Molto bene, grazie allora intanto per tutto questo suggestivo racconto sull'ultima opera di Wilbur Smith. Adesso direi di cambiare radicalmente ambientazione e tema e andiamo all'altro libro di cui vogliamo parlarvi oggi. Diario di uno schiappa, mi piace perché è divertente, simpatico e, come dice il titolo, le situazioni sono da schiappa. Greg Heffley è veramente la persona più sfigata del mondo. Quindi ringrazio Jeff Kinney per aver pubblicato questa serie dedicata a noi ragazzi. E insomma, di fronte alla domanda indovinate quale libro è, già abbiamo svelato il mistero senza faticare troppo, Alessandra. È l'altro libro della settimana, perché è uscito veramente da pochissimo ma già ha raggiunto la vetta della classifica dei libri più venduti fra bambini e ragazzi, ed è Il diario di una schiappa, ottavo volume, dal titolo Sfortuna nera. Anche in questo caso, Deborah, abbiamo numeri da record: 2 milioni di copie in Italia, 150 milioni nel mondo. Anche in questo caso vorrei essere nei panni di Jeff Kinney. Perché? E chissà perché, insomma, indovina un po' quanto avrà guadagnato da questa saga. Guarda, possiamo avere un'idea, giudicare dai numeri che ci hai indicato poco fa. I pochi scrittori che guadagnano con la scrittura. Esatto, anche se appunto il target, diciamo, di questo scrittore e di questo libro è abbastanza, come dire, ridotto, limitato, anche sì, se può piacere poi. Allora, diciamo che va dagli 8 ai 13 anni, quindi quarta quinta elementare, fino alla terza media. Il protagonista è appunto Greg, questo ragazzino sfigato, gliene succedono un po' di tutti i colori, è una schiappa, i bambini si identificano molto. Io, come sempre, lo testo sui miei nipotini di quasi 8 anni, che lo leggono già con passione, e sui figli appunto delle mie amiche, che insomma sono veramente appassionate. Abbiamo una versione abbastanza interessante anche di questo libro, non solo il cartaceo, ma per chi volesse, come dire, utilizzarlo per placare un po' i bambini quando sono in auto, che cosa si può fare? C'è anche l'audiolibro, non di questo ultimo naturalmente volume, ma di altri volumi, che è stato letto da Neri Marco Re. Neri Marco Re, insomma, hai dovuto leggere necessariamente la schiappa a questo, esatto, punto. Ma non è che ti hanno chiamato perché sei una schiappa, no? Cioè, non c'entra nulla. Chissà, magari l'accostamento, può darsi pure che la sinapsi abbia funzionato così. In realtà poi per la Emons ho letto altre cose, ma non mi ricordo se questo è stato il primo oppure il secondo, quindi... Però ti eri già cimentato. Al di là di questo non è stato assolutamente un sacrificio, quindi quando mi hanno chiamato e proposto di leggere questo diario di una schiappa mi ha fatto piacere. Tra l'altro l'avevo già letto, insomma conoscevo ovviamente il fenomeno letterario. Ecco, ma cos'è che ti è piaciuto? Secondo te perché questo libro riesce veramente a incantare soprattutto i maschietti, devo dire, fra gli 8 e i 13 anni? Beh, perché è una sorta di Gian Burrasca, ovviamente ambientato ai tempi nostri, è ambientato in un'altra società, non in Italia, però insomma gli episodi narrati sono sempre molto divertenti. Così, flash, il tuo periodo della scuola media com'era? Eri una schiappa? Tremendo. No, allora, sì, da certi punti di vista sì. A scuola andavo bene, mi piaceva anche, il che mi rendeva forse anche un po' così diverso dagli altri, perché si sa che notoriamente la scuola viene disprezzata o comunque insomma così. E io in prima media, per esempio, ero il più alto, in terza media ero diventato il più basso quasi, per cui vedevo gli altri che già svettavano, io rimanevo un po' indietro, quindi questa cosa mi succede. Non mi rendeva felice. Poi si è vendicato un po' di Mi sentivo molto più schiappa in terza media che in prima, sicuramente. Poi dopo qualche anno li ho superati di nuovo io, insomma. Però ci sono stati anni abbastanza complicati, diciamo, quelli intorno alla terza media. E qui in questa storia, insomma, uno ci si può ritrovare ovviamente con tutte le condizioni diverse. Ci piace questo dibattito che ci fai aprire, purtroppo altrettanto rapidamente chiudere, Neri, ma magari ne approfitteremo in un'altra puntata per coinvolgerti su tutto questo. Grazie intanto, grazie a molte. Voi. E dall'Egitto alle schiappe, infine al mistero, Alessandra. Sì, il mistero, perché fa parte di uno dei consigli della settimana che vi do oggi. Un libro si intitola L'assassino non sa scrivere, di Stefano Piedimonte, pubblicato da Guanda. Questo è un libro consigliato a chi ama leggere Montalbano e Marco Malvaldi. Insomma, il giallo, il noir, condito veramente da tanta, tanta ironia. È tutto ambientato in un piccolo paese che si chiama Fancuno, e si chiama così, Fancuno, proprio, è la puntata giusta questa, va bene. C'è un serial killer che lascia biglietti sgrammaticati sui cadaveri delle sue vittime, a indagare carabinieri, un giornalista e una strana barista. Raccontaci adesso di un altro libro di cui vuoi consigliarci la lettura, a più presto. Allora, consiglio anche il libro dell'olandese Stefan Enter, si intitola La presa, pubblicato da Iperborea. Lo vedi questa copertina belle tutte compatte, insomma, davvero? Sono lunghe e strette. Lo consiglio a chi ama la montagna, le scalate e i romanzi molto molto psicologici, perché c'è un gruppo di amici che decide di rivedersi dopo 20 anni. Da ragazzi avevano fatto una scalata dove era successo qualcosa che aveva cambiato le loro vite, e quindi dicevo, è un romanzo psicologico perché si riflette sulla vita, sulla morte, ma anche sull'immortalità. Allora, tanti appuntamenti con la lettura, ma c'è un altro appuntamento che non possiamo dimenticarci di ricordare, che è quello con il cacciatore di libri, perché veramente il tuo ospite è un top di gamma, come dico sempre. Sì, nella puntata di oggi, che andrà in onda alle 22.05, lo scrittore israeliano Amos Oz, su un libro veramente, veramente bello, che si intitola Giuda. Ottimo, grazie ad Alessandra Tedesco, buona lettura a tutti. Il sabato del villaggio. Into this world all alone, you gotta take your soul. Giuro che non ho mai visto un ospite più contento come tanto contento come quello che abbiamo portato oggi. Allora, vai, lo saluto subito. Diego Castelli, channel manager di Iris, se si dice così, sì, è corretto, sì, anche ciao. Come carica. Sì, ben trovato. Esatto. Allora, per chi non la conoscesse, adesso sveleremo il mistero su questa straordinaria colonna sonora. Apriamo adesso il nostro dibattito, così la nostra chiacchierata sulle serie televisive. Chi di noi non è affezionato almeno ad una vita? Almeno, ma ce ne sono anche di più, perché comunque, come del panorama televisivo, ce ne offre di tutti i gusti, dai più piccoli ai più grandi, no Diego? Assolutamente, cioè, tu, chi non ne ha una, io ne avrò 150. Esatto. Quindi... Allora, quindi siamo qui per, appesi alle tue labbra, per sapere quali intanto sono le più gettonate del momento, quali sono le tue preferite, quali sono quelle che ci aspettano, quelle che arriveranno, quelle che si stanno per concludere. Tutto questo perché? Perché abbiamo chiamato te? Intanto perché sei uno dei, degli animatori di Serial Minds. Sì, che animatore è la prima volta che lo sento, relativo a Serial Minds, sì. Ti piace, se no come si dice? Non lo so, diciamo fondatore. Fondatore, esatto, tanto lo hai fatto, dopodiché esatto. Però lo animi anche, perché sì, scrivete siamo un sacco di cose. È il blog su, con tutte le curiosità su tutte le serie televisive, tutte tuttissime. Sì, quasi, però sì, diciamo sì, tutte quelle che riusciamo, ecco. Infatti, la canzone che abbiamo sentito è quella di una serie che a te piace moltissimo. Sì, che è Sons of Anarchy, ed è una serie per cui il fatto di essere qui, diciamo, su una radio nazionale importante a parlare di Sons of Anarchy creerà solo gioia nei nostri lettori, io spero. È una serie che in America va in onda su FX ed è tanto poco considerata da un punto di vista di premi e comunque battaggio internazionale, tanto quanto è bella, nel senso che si parla di motociclisti, sì, biker in una città che si chiama Charming, c'è una città fittizia della California, già del fiabesco, esatto, che ha a che fare col traffico d'armi, esatto, e dei motociclisti, esatto. Pensate voi, solo che appunto questa cosa dei motociclisti, delle pistole, dello spararsi è una cosa che tende a far pensare una certa cosa di Sons of Anarchy, cioè che sia una serie action e poco più, e in realtà è una serie enorme che ha come dire, che ha un'impostazione molto shakespeariana, perché ha la base narrativa che è Amleto, cioè stessa cosa, cioè un principe con un re, ovviamente parliamo per metafora, però un principe con un re morto e la madre che si mette con lo zio, tra virgolette, insomma, quindi ha le, come dire, ha le caratteristiche della tragedia, per cui tu rimani legato non tanto alle questioni di criminalità piuttosto che armi, che possono essere il di più o la cornice narrativa in cui inserire la questione, ma in realtà è proprio la forza dei personaggi che ti porti dietro e l'affezione che riesci a maturare, e poi quando te li ammazzano, perché ne ammazzano parecchi con tutte quelle armi, esatto, che hanno, esatto, poi rimani così per 2 giorni con l'occhio pallato, ecco, però comunque ti piace. Senti, tantissimo. In Italia l'abbiamo vista in chiaro, intendo? In chiaro no, è andata solo sulla pay tv e capisco perché, nel senso che perché è proprio una nicchia, insomma, piace sì, a pochi perlomeno eletti. Effettivamente poi lavorando io sulla tv generalista giornalista so che una serie così sarebbe comunque un po' stretta, diciamo, un po' difficile da far digerire al pubblico generalista. Ci vorrebbe parecchio coraggio per metterla in mezzo. Lancio però questa sfida al 349-238-6666 se vi sta capitando di ascoltare questa intervista a Diego Castelli e se siete degli appassionati follower in questo caso, perché naturalmente anche questo termine va benissimo. Di Sons of Anarchy, naturalmente scrivetecelo, raccontateci che cosa vi piace di questa serie appunto straordinaria, e io che l'ho vista solamente in pochi brani, solamente per prepararmi a questa intervista, adesso mi avete incuriosito, devo assolutamente andare a seguirla. Poi ci risentiamo quando hai visto tutte le sette stagioni, e tra poco, tra volta, l'altro, allora 9 dicembre è la fine. Devo andare al recupero, La prossima canzone, la prossima colonna sonora, insomma la prossima sigla, chiamiamola come vogliamo, ci introduce ad un'altra serie, sentiamo. Questa è un po' più glamour. Sì, molto, molto più pop. A me fa pensare a, come ti dicevo anche prima, microfoni spenti, a Gossip Girl, sì, che è proprio quella per ragazzine, ma me la sono guardata tutta quanta. In questo caso pure parliamo di una serie che, tanto per cambiare, ha come protagonista un medico, una ginecologa. Sì. Però la particolarità è che è sudasiatica. Sì, in realtà la cosa nasce dal fatto... Perché viene proprio, vedo, enfatizzato molto questo aspetto. Sì, sì, sì, no, ma perché lei è proprio un personaggio, si chiama Mindy Kaling, la protagonista è di Mindy Project, la serie di cui stiamo parlando, e lei viene da una lunga carriera di comica, diciamo, ed è conosciuta soprattutto per il ruolo che aveva in The Office, e anche prima era conosciuta per questo, cioè per essere, diciamo, l'indiana, tutta glamour, tutta interesse per quello che sono le riviste patinate, eccetera. Poi tra l'altro, se proprio dobbiamo dirla tutta, non è che abbia proprio anche il fisico della modella. No, ma infatti è bellissimo il fatto che lei ci giochi tantissimo, sì. Ci giochi tantissimo, lei continua a dire di essere bellissima, giovanissima, esilissima, poi non lo è, e quindi è di una simpatia eccezionale. Normale, come tutte noi, insomma. Esatto. Che cosa di speciale questa serie? Ma tu mi chiedi che cosa di speciale questa serie, sì, in generale, o me lo chiedi per dove dobbiamo andare a parlare. Allora, la questione è che la vogliamo far sentire anche la seconda sigla che avevamo preparato. Aspetta, poi non vuoi introdurre a questa cosa? Introduci, guarda, fai conduci insieme a me. No, nel senso che tutto questo nasce dal fatto che ho scritto una cosa pochi giorni fa, per cui c'è su Serial Minds la sigla di The Mindy Project, che è così, è carina, accattivante, l'abbiamo sentita, c'ho un'amica che ce l'ha come sigla, come suoneria del cellulare. Succede che però da un certo punto in poi hanno cominciato a tagliarla, come fanno con tante sigle e come hanno fatto in passato con tante sigle. Si dice sigle, adattarla, diciamo così, però tagliarla è più intenso, più emotivo. O arrangiata magari, se proprio vogliamo essere professionali. Hanno cominciato a tagliarla creando sempre una specie di coitus interruptus. Andiamo verso il radiogiornale. Esatto, di bene, via, se vogliamo sentirla. Ascoltiamola, sentiamo il coito interrotto, sì. Ecco, cioè, adesso se mi arriva una lettera di richiamo, poi me la prendo con te, te lo dico. È un termine assolutamente medico. Tu la dici in maniera più nobile. Male, esatto. Insomma, vabbè, dai, a te non piace, proprio non va giù questa cosa che storpiano le sigle. Non mi va giù, perché o non la fai, come tante serie ormai hanno cominciato a fare, soprattutto quelle generaliste americane, che non hanno il tempo di farti la sigla da un minuto e mezzo, tipo Game of Thrones, piuttosto che non la fanno, io ci sto se non la Benissimo. Fai. Ma se tu cominci e io mi appassiono e poi me la tagli così, poi a me viene male. E questo è solo uno dei punti, dei 10 punti del tuo decalogo sulle cose che non devono mai succedere con le serie televisive, e su questo mistero noi torneremo dopo il giornale radio, a tra poco. Il sabato del villaggio. Eccoci ritrovati al sabato del villaggio. Se ci fosse Marta Cagnola qui, ricorderebbe naturalmente a tutti che si tratta del villaggio globale, dove ci sono suggerimenti per acquisti mentali, quindi stiamo un po' vivacizzando le idee e dando ai nostri ascoltatori, come sempre, consigli su buona musica da ascoltare, buoni libri da leggere, poi parleremo anche di consumi. In questo momento invece ci stiamo dedicando alle serie televisive di successo, e naturalmente con noi quest'oggi Diego Castelli. Già ti stavo richiamando Guido, attenzione, sì, ero già pronta, come mi sono sbagliata sbagliata prima, microfoni spenti, e avevamo promesso ai nostri ascoltatori di fare l'elenco delle 10 cose che odiamo delle serie TV. Lo facciamo perché tu hai scritto questo decalogo. Sì, l'ho scritto più che altro per una questione di distacco, perché di solito noi che amiamo le serie TV siamo visti come una sorta di integralisti, no? Quelli per cui li vedi e gli dici: ma cosa fai, guarda le serie TV, ma esci un po', no? Ecco. Noi no, quindi ci arrabbiamo così, però allo stesso tempo, come ogni rapporto d'amore, ci sono anche delle cose che non funzionano. Eh certo. E anche le serie TV hanno cose. Una l'abbiamo raccontata prima, intanto quando le sigle vengono un po' modificate, no? Per accorciarle, farle diventare magari uno stacchetto da metterle ad un certo punto, esatto, prima della pubblicità o non so dove, ma ce ne sono altri che sono davvero eccezionali. Poi racconterò il mio preferito, qual è? Ce ne sono altri che il primo che abbiamo messo sono i brutti finali, perché la serie TV funziona perché ti tiene lì per anni e tu ti affezioni a personaggi e storie, e quindi è ancora più importante di un film o anche di un romanzo che puoi leggere in 4 giorni che abbia un bel finale. E la cosa peggiore, in realtà, più che il brutto finale, io sul sito avevo segnalato Lost, ma in realtà Lost a me piace. Già qualche ascoltatore ce lo sta segnalando. A me Lost è piaciuto anche il finale, però mi rendo conto che sia di un livello diverso rispetto a quelli delle stagioni precedenti, e le persone si sono molto arrabbiate. Ma secondo te perché un produttore fa una scelta di questo tipo? Di così chiudere con un finale che non scontenta, ma proprio intristisce tutti, insomma delude tutti. Secondo me ci sono dei casi come quello di Lost in cui parti e non lo sai come va a finire, o lo sai a grandi linee. Quindi poi navigava la serie, un po' vista anche un po' sceneggiatore vista, produttore. Esatto, la serie dura 7 anni, alla fine dei 7 anni non avevi ben capito com'è, solo che la storia che sei portato avanti, i 1000 rami che hai creato, alla fine non riesci a rimetterli insieme bene com'è, oppure semplicemente a te piace particolarmente e vuoi farlo finire così, ma scopri a tutti i tuoi spettatori non piace. In realtà la cosa peggiore è quando finiscono e non hanno una fine, perché finiscono poi tagliano la serie, la chiudono e non abbiamo modo di vedere come va a finire. Quella insomma, è una allora roba. Finali brutti, poi finali c'è brutti. La gente che confessa, giusto perché il detective o l'avvocato è stato molto bravo. Questo è proprio il classico della serie crime. Dopo 40 minuti ti ho detto, ma tu non potevi essere lì quella sera, e lui ti dice, caspita, hai ragione, quando nella realtà tutti ti direbbero, cioè negherebbero fino anche a dopo essere usciti di galera, probabilmente. Li scorro velocemente, prego, poi prego. Andiamo allo spin-off, no, le ragazze che si mettono sempre nei guai, qua so che ti riferisci a Meredith Grey di Grey's Anatomy, chiaramente anche se non lo scrivi c'è anche Carrie Bradshaw di Sex and the City, sì. E poi un'altra che proprio quella ti che sta qua proprio... su come si comporta, perché dice lei di essere la sfortunata, esatto. E poi in realtà è lei che ne combina di ogni a tutti gli uomini che esatto. incontra. Eppure tutti levano dietro lo stesso, io questa cosa non la riesco proprio a concepire. Guardi, la me vorrei fare la protagonista di questi telefilm. Quando il protagonista diventa famoso e dice ora faccio il cinema. Esatto, maledetto, ti abbiamo amato per anni e poi te ne vai, cioè io ti disprezzo veramente, anche perché poi vai a fare il cinema, io riesco a vederti solo nelle parti del telefilm che ho visto fino a quel giorno lì. C'è proprio un caso che ti è rimasto qua, come dire, sul groppone, inaccettabile secondo te? No, il caso io avevo segnato quello di Catherine Heigl, pronuncia precisa, che faceva Izzy in Grey's Anatomy, e lei se n'è andata, si è messa a fare il cinema, le commediole romantiche, che poi tra l'altro anche in Grey's Anatomy ha avuto i suoi problemi di salute molto importanti, non è che anche lì si trovasse tanto bene. No, anche lì non si trovava tanto bene, però se n'è andata per fare filmettini che alla fine ci hanno lasciato poco, e quindi secondo me era meglio che rimaneva lì, poi in questo poca ragionevolezza e molta... Attori che fanno delle scemenze fuori dai telefilm e per questo vengono estromessi dalle serie, ma questo numero 6 per me è il top di gamma. Quando per, tu utilizzi un altro termine, ma io dico fare l'amore, hanno bisogno di riempire la casa di candele. Questa è una roba che non si può vedere. È una cosa beautiful, molto beautiful. Sì, però. E non si può vedere perché magari tu hai anche delle cose da fare. Io qua ho citato il caso di The 100, che è una serie recente post-apocalittica, fantascientifica, dove le persone muoiono, le persone non hanno di che mangiare. Eppure tu riesci a trovare il tempo di allestire di questa alcova nella stanza, perché sennò lei poi non te la dà, si può dire non te la dà. Prima abbiamo parlato dell'altro momento. Esatto, comunque poi lei, non succede niente, però voglio dire, no, non hai il tempo di fare quella cosa lì, e poi secondo me se lei ti vuole veramente bene se ne frega. Ma quanto c'hai tempo, insomma, a stilare, quanto tempo ci hai messo a stilare questa classifica questa mezz'oretta, mezz'oretta, perché c'è una vita dietro di... Era talmente chiaro quello che non andava. Esatto. Punto 7, quando il 99% degli spettatori vuole vedere insieme Gino e Gina e tu invece, autore, decidi che invece no. Esatto. Fai un'altra coppia. Ma perché cioè le coppie che sai che si formeranno e che ci mettono tanto a formarsi sono un po' il sale di tante serie TV, però alla fine si devono formare. Cioè il problema è se tu me lo dici per 6 anni che quei due lì finiranno insieme e poi non ci finiscono. Quella roba lì è veramente fastidiosa. Un altro punto, adesso li leggo velocemente perché poi voglio presentare un'ultima serie prima di salutarci. Diego, quando non fanno vedere le tette solo perché siamo sulla TV generalista. E poi punto 10, quando per fare il cattivo usano un attore che fa sempre il cattivo e quindi insomma non è più credibile. E quindi lo sai parte. Già, lo sai già. Ah, è quello lì, vabbè, allora sarà lui il cattivo e avrà ucciso lui. Allora, dopo aver presentato, per chi non li conoscesse, The Sons of Anarchy e l'altra che è The Mindy Project, adesso andiamo alla terza serie suggerita dal nostro Diego Castelli. Lo so come ti senti adesso. Te lo prometto, per quanto buio e spaventoso sembri il mondo ora, tornerà la luce. Tornerà la luce, Bruce. Qua, che mistero. Non abbiamo Batman, ma quasi Batman. Non abbiamo Batman, ma quasi Batman. Parliamo di Gotham, che è, secondo me, è stata la serie più attesa di questo autunno e in questo momento è una delle serie più chiacchierate di questo autunno perché ha diviso molto gli spettatori. Mm-hmm. Cioè c'è una parte del pubblico a cui sta piacendo moltissimo e una parte del pubblico che la sta odiando terribilmente, cioè si fa fatica a trovare un po' le vie di mezzo. E il motivo è che richiama un mondo che è fantastico, cioè quello di Batman, e c'è un'idea di fondo che è tanto coraggiosa quanto interessante. Mm-hmm. Cioè facciamo vedere Gotham senza Batman, quindi dice ma sei matto, però allo stesso tempo c'è tutto un pathos, un sostrato così. Certo. E il suo problema per ora è che non si è bene capito dove vuole andare a parare, cioè se vuole essere però sta andando bene. Sta andando bene in America, sta andando bene secondo me anche soprattutto perché c'è ti diamo carta bianca, cioè sei Gotham, sei quella cosa lì, vogliamo vedere 10 anni e alla fine il bambino sarà cresciuto e si mette il costume di Batman, cioè una cosa così ci manda fuori di testa. Allo stesso tempo stiamo sperando che non sia solo un poliziesco semplicemente con dei tizi buffi da vedere. Niente, avrei avuto a questo punto il colpo di scena di Laura Palmer di Twin Peaks, che è in disgrazia negli Stati Uniti. L'attrice Sheryl Lee confessa malattie e difficoltà economiche. Oggi sul Corriere purtroppo ti lascio con questa finale notizia. Ma noi dobbiamo andare però ai suggerimenti. Ciao. Perché in viaggio. Diego, grazie molte per essere stato simpaticissimo, preparatissimo. Mi ha fatto venire voglia di vedere tutte le sigle. Guarda adesso tutto, stasera mi chiudo in casa. Il sabato del villaggio. E nel nostro sabato del villaggio, naturalmente il nostro villaggio globale, non manca di certo il momento dei consumi, delle nuove tendenze e, come sempre, per parlarne ci affidiamo alla nostra esperta Maria Luisa Pezzali. Ciao Deborah, un saluto a te e un saluto agli ascoltatori. Ciao. Sai che cosa sono le private label? Mi fai subito l'interrogazione così? Esattamente. Allora, mi viene in mente immediatamente, la prima cosa che mi viene in mente è la pasta Esselunga dell'Esselunga. Esattamente. Marche private, marche commerciali, la traduzione letterale, sono i prodotti proprio a marchio dell'insegna, quelli cioè che portano il nome del supermercato dove li andiamo a comprare. Magari qualcuno dei nostri ascoltatori è appena tornato dalla spesa del sabato, un appuntamento per molti di noi, lo sappiamo, nella gestione, il sabato pomeriggio nell'incastro delle nostre vite, oppure in auto, ci sta andando magari proprio in questo momento. Ebbene, sappiate che 6 italiani su 10 ormai considerano questi prodotti, le private label appunto, una validissima alternativa alle marche. Marche che per tradizione in Italia tra l'altro hanno avuto da sempre un radicamento molto forte rispetto ad altri paesi europei. Cos'è successo da un paio d'anni a questa parte? Che la crisi, come altro raccontiamo che, infatti spesso, vorrei poi chiederti dei prezzi, intanto ti lascio andare avanti, ma poi ti interrogerò anche su questo aspetto. Va bene, sono preparata. La crisi, dicevamo, lo raccontiamo spesso, in essere avere ha reso il consumatore molto più attento nei suoi acquisti, attento innanzitutto al prezzo. Eccoci qua, e le private label costano meno? Sì, spesso coprono il cosiddetto primo prezzo, cioè il minor prezzo della categoria, con risparmi che arrivano a toccare il 30% rispetto alla marca leader, ma più attento anche al rapporto qualità-prezzo, quindi qui entrano in gioco altre categorie, altre tipologie di private per label, esempio, per esempio quelle legate alle linee bio, oppure ai prodotti premium che puntano invece alla qualità, hanno prezzi addirittura superiori infatti, rispetto ho in mente alla una nota leader. Insegna della grande distribuzione che ha, come dire, in esposizione prodotti che sono abbastanza costosi, insomma. Ecco, sono categorie di prodotto presenti non solo nell'alimentare, perché il riferimento immediato è quello vero. All'alimentare. Quindi mi stai dicendo anche le lavatrici, per esempio? Anche gli elettrodomestici. Davvero? Sì, anche lavatrici no, però magari piccoli elettrodomestici, penso ai ventilatori che vengono venduti nella grande distribuzione, oppure i prodotti per la cura della casa, la cura della persona, fai da te. Ottimo, allora io direi, se tu ritieni che sia arrivato il momento, di sentire anche un po' qualche dato relativamente a questa tendenza. Che cosa ci puoi raccontare a questo proposito? È un fenomeno che cresce moltissimo, ha messo in discussione molti equilibri di mercato tra produttori e distributori. I numeri li ha raccontati proprio una recente ricerca firmata Nielsen. All'interno dei supermercati italiani è ormai un testa a testa tra le grandi marche e le cosiddette private label, che sono ormai diventate parte integrante degli acquisti. Quasi 5 italiani su 10, il 47%, ritengono che alcune di queste ultime siano superiori alle marche più famose e il 64% che possono essere una buona alternativa a quelle tradizionali. Un dato, quest'ultimo, quasi raddoppiato negli ultimi 4 anni. Più di 4 italiani su 10, inoltre, sono disposti a pagare di più per una marca privata di qualità e il 56% della popolazione, nel 2010 era solo il 23%, considera le marche private di qualità assimilabili ai prodotti di marca. Anche il giudizio sulla confezione è decisamente migliorato, tanto che solo il 25% dei consumatori la ritiene inadeguata, mentre il 50% pensa che abbia raggiunto gli standard di packaging delle grandi marche. Dal punto di vista del fatturato, le marche private rappresentano il 18% del giro d'affari del largo consumo. In Gran Bretagna la quota di mercato supera il 50%, in Germania, altro paese di riferimento per il settore, il 34%. Le linee premium rappresentano il 18% del fatturato totale di marca privata, contro il 44% dei prodotti primo prezzo. Sconti e promozioni nel settore pesano per circa il 22%, contro il 29 del totale dei beni di largo consumo. Beh, insomma, i numeri ci raccontano di una tendenza che dal punto di vista macroeconomico comincia a diventare davvero interessante. Mi chiedo però, Maria Luisa, dove vengono prodotti questi prodotti? Negli stessi stabilimenti che, come dire, distribuiscono anche la prima marca? Spesso sono prodotti proprio negli stessi stabilimenti, non sempre gli stessi dell'industria di marca. Segnalo subito un sito molto interessante, ioleggoletichetta.it, è un sito consumerista cosiddetto, quindi dalla parte dei consumatori, con una serie di segnalazioni molto interessanti. Per chiudere, Deborah, questo argomento, diciamo che perché costano meno? Costano meno perché non hanno innanzitutto costi di pubblicità e di promozione, perché interessa al distributore promuoverli, perché sono una fortissima leva di marketing. Che packaging diverso anche? Sì, certo, ovviamente. Non sempre, lo abbiamo sentito nella scheda, più povero, anzi c'è molta attenzione in questo momento. Una leva di marketing, dicevo, per il distributore, perché permette loro di rafforzare il rapporto di fiducia io supermercato con il mio consumatore. Benissimo. Settimana scorsa io ho curiosato un po' nella puntata che hai fatto con Marta e ti ho sentito raccontare anche in questo caso di un fenomeno recente, diciamo abbastanza giovane, che è quello dell'acquisto online di prodotti freschi, quindi insomma la mozzarella che ci arriva direttamente a casa se facciamo un acquisto utilizzando il web, internet. Non ci fermiamo però qua, perché qua ormai il fermento è inarrestabile. Stabile. Assolutamente sì, tra l'altro aggiungiamo un elemento rispetto a quanto detto settimana scorsa, la notizia è proprio di questi giorni, Oscar Farinetti ha annunciato che è pronto a scendere in campo e ad anticipare Amazon. Ormai che sta iniziando. Ormai lui scombina sempre tutto. Lo dicevamo settimana scorsa, Amazon sta iniziando anche in Europa a vendere il fresco, saremo noi i primi, ha detto Farinetti, non mi faccio battere da Google o da Amazon che non sanno neanche cosa sia il cibo. E però lui libri nei suoi centri ce li ha, Sì, lui vuole tutto. Tutto quanto. Lo salutiamo, tra l'altro, perché ci ascolta. Certo, l'idea, ha detto, è quella di realizzare un enorme orto italiano, con prodotti appunto italiani, ripreso 24 ore, pensa, dalle telecamere, mostrando in tempo reale come vengono coltivati. Ma che bello, i però, prodotti. Dai. Molto bello, a lui piace. Storytelling di prodotto, quindi una tendenza molto in voga in questo momento. Vendite online, dunque, certo. Un altro tabù da abbattere, il fresco, ma anche il vino. E oggi parliamo proprio di questo, dell'acquisto di vini online. Mi raccomando, senza rompere bottiglie, perché questo è un grandissimo tesoro del nostro agroalimentare, per cui dobbiamo averne cura. Lo facciamo come sempre in compagnia di Cristina Lazzati, direttrice di Markup e GDO Week. Ciao Cristina! Ciao a tutti, buon Ciao Cristina, buongiorno. Iniziamo subito, Cristina, col segnalare i siti di riferimento, quelli che hai attentamente selezionato per noi, Cristina. Guarda, con la stessa attenzione con cui Oscar Farinetti guarda i prodotti, ci sono già degli italiani che si sono mossi, vi segnalo goodmakers.it, che è un network di acquisto, cioè per cui più persone partecipano alla vendita, più scende il prezzo, fino ad arrivare al massimo del meno 20%, perché poi sotto di lì i poveri produttori di vino rimangono, come dire, senza margine, senza guadagno, e quindi basta farla girare nella propria rete di amicizie e di social il messaggio, e quindi portare più gente a comprare. Le vendite sono a tempo limitato e il prezzo scende dal meno 2 fino al meno 20. Ma c'è un altro bellissimo progetto che si chiama thewinefathers.it, dove si può anche aiutare una vigna che magari sta rinascendo, è stata riscoperta, diventando proprio zii, cugini e parenti, mettendoci dei 100 e 1000 euro e poi decidendo se avere in cambio o il nome del proprio figlio o il proprio, se si è molto egotici sull'etichetta, oppure si può anche coinvolgere, arrivare fino ad arrivare a passare 2 giorni nell'azienda agricola di riferimento. Ovviamente anche qui c'è la possibilità di comprare vino online. E poi passiamo anche a wineonwine.it, che sono piccoli produttori locali selezionati attentissimamente, quindi quei vini che non troveremo mai né in grande distribuzione ma nemmeno in enoteca, perché sono troppo piccoli, e quindi ci sono delle vendite limitate, nel senso che poi le produzioni non sono molto grandi, però dei prezzi accettabili per dei vini per lo più sconosciuti ma tutti da assaggiare. E poi invece passiamo a un colosso, perché c'è Van Privé, che si misura anche in Italia coi vini, essendo il primo venditore di vino online in Francia. E quindi anche lì, con la stessa logica con cui Van Privé promuove le sue aste online, anche per il vino funziona allo stesso modo. E infine, se non sappiamo dove trovarli, beh, c'è trovino.it. Allora, se uno vuole cercarsi un vino da comprare online e vuole sapere qual è il prezzo più basso, va su Trovino, che è una sorta di Telco ma solo dedicato alla bevanda, e via, che si cerca la sua bottiglia, poi verrà riferito al sito dell'azienda agricola di riferimento e farà i suoi calcoli per la spedizione, che in questi casi spesso sono un po' salate. No, Cristina, tra l'altro stavo pensando che, senza nulla togliere agli altri, naturalmente Trovino è una genialata, si può dire? Il nome è azzeccatissimo. Altro che, veramente, come dire, sono stati anche fortunati, dato il prodotto che si trovano a distribuire e commercializzare. Ci stavo pensando, mentre sentivo appunto Cristina, sul fatto che queste modalità consentono anche a piccoli produttori, no, di presentarsi sul mercato, anche se non hanno disponibilità di grandissime quantità da mettere appunto sul mercato, Cristina, però con la modalità 2.0 ritengo che, come dire, hanno un'occasione imperdibile in questo momento per far veicolare i propri prodotti. Assolutamente, è un modo veramente per aiutare il made in Italy, quello, come dire, più, per certi versi, più vero, più artigiano, quello che affonda letteralmente le radici nella nostra terra, e nel contempo senza snaturarlo, senza chiedere delle dimensioni o delle produzioni eccessive che porterebbero comunque a un cambiamento di passo che la terra spesso non riesce nemmeno a sopportare. E in più questi siti hanno anche la possibilità di dare ai nostri produttori anche un occhio verso l'estero, perché nulla impedisce, sono tutti organizzati per far sì che le spedizioni non arrivino solo dentro l'Italia ma anche fuori dall'Italia. Grazie Cristina, a sabato prossimo. Grazie molte. Grazie a voi, buon pomeriggio. Io vado a fare un giro intanto su Trovino. Nel frattempo tu invece, Maria Luisa, raccontaci che cosa affronterai, quali temi affronterai ad essere a avere questa settimana. Non svelo niente, l'appuntamento è per domani alle 15, assolutamente. Sorpresona, ottimo, allora ci stupirai con effetti speciali. Grazie. Grazie molte, buona giornata. A presto. Il sabato del villaggio. Seguito di loro, dicono chi l'è il peggiore. Non cambierebbe anche se vincessi il disco d'oro. Dicono chi l'è il peggiore. Rappo coi migliori ma uno il peggiore. In mezzo ai peggiori fra uno il peggiore. Tutto è inizio sulla statale Milano-Lecco, dove di cose da fare ce ne sono poche e prospettive ancora meno. Emilietto ha un padre artista che entra ed esce dagli ospedali per un disturbo della personalità, una madre che si spacca la schiena per portare un po' di soldi a casa e tanta rabbia in corpo. Consuma i suoi pomeriggi al parchetto e le serate in discoteca, ma all'improvviso nella sua vita irrompe l'hip hop. È uno shock. È l'America. Emilietto è Emiliano Rudolf Giambelli, ma così ormai si chiama solo per pochi intimi, perché ormai per tutti noi è Emi Schilla, tra i più amati giovani rapper d'Italia. Ma direi, Emis, buongiorno, niente più emergente ormai, bello che è emerso, che ne dici? Sì, ciao, buongiorno. Ciao. Scusa se ho la voce che vibra un po', ma sono in macchina in un taxi, ci sono i tampietrini. Vai tranquillo, so che stai raggiungendo Palermo, dove oggi ti aspettano tantissimi ragazzi. Sì, ma diciamo che sì, dai, la gavetta comunque, quantomeno quella da rapper, è finita. Adesso bisognerà vedere che cosa succederà, che cosa succede. Qui in poi, no? Certo. Parlando di musica a 360 gradi. Bravissimo. Allora, quello che questa parte che ho letto io all'inizio sono alcune righe tratte dalla quarta di copertina del tuo libro, Bus 323, Viaggio di sola andata. Allora, come mai hai deciso di pubblicare questo libro con Rizzoli, che ricordiamo è uscito il 5 novembre, poi ritorneremo su tutta la tua storia musicale? Ma il motivo per cui ho voluto scrivere un libro era mi ha spinto a farlo il voler parlare al mio pubblico e non senza limiti dettati da una melodia, dalle rime piuttosto che dalla metrica, no? Volevo parlare più liberamente alla gente, quindi appunto nel momento in cui già stavo scrivendo abbiamo avuto più incontri appunto con diversi editori e appunto con Rizzoli comunque è nato un feeling particolare per la quale abbiamo voluto mandare avanti questa cosa. Esatto, il progetto è diventato, come dire, un progetto definitivo. Il bus 232 è il pullman che da il 323, 323. Scusa, esatto, ho fatto il cambio di numeri, è l'autobus che da Via Mercate porta Cologno Monzese, un autobus sì. Che tu hai, su cui sei salito tante volte. Sì, è il pullman che partiva appunto da Vimercate, che prendevo per andare a Milano tutti i giorni, perché poi non è che mi fermavo a Cologno, da Cologno prendevo la metropolitana e andavo a questo muretto, così si chiamava il posto stop, è un luogo abbastanza famoso per l'hip hop milanese, che ormai non esiste più perché ci hanno costruito un negozio attorno, però appunto all'epoca c'era soltanto questo muretto. E appunto è un po' l'icona del mio viaggio, di tutta la gavetta, dei sacrifici comunque che ho fatto da sbarbato, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi mi piaceva ricordarlo così comunque. Certo, da Cologno Monzese, appunto, tu dicevi, prendevo la metropolitana scavalcando i tornelli della metro per andare in città a fare freestyle. Sai che io sono un po' vecchia, ho 20 anni più di te, per cui se mi dovessi raccontare che cos'è il freestyle, che cosa mi diresti? Che consiste nell'improvvisare delle righe al momento, poche parole. Per chi volesse andare a vedere che cos'è il freestyle nella maniera più semplice possibile, consiglio di andarsi a guardare il film di Eminem, 8 Mile, che sdogana un po' il freestyle anche in Italia. Però in realtà esiste comunque da molto prima, appunto ci sono queste gare in cui un DJ mette una base e i due rapper improvvisano delle rime che possono essere o a tempo, cioè diciamo illimitato, quindi a tema libero, oppure 4 battute a testa, no? Solitamente ci si insulta, si denigra l'avversario, no? Beh, sei stato chiarissimo. D'altronde comunque se sono tendenze, fenomeni nuovi, noi dobbiamo tenerli sotto osservazione appunto ed apprezzarli anche per quello che sono. Senti, la canzone con la quale abbiamo introdotto la tua intervista è Il Peggiore, che parla delle critiche che la tua musica qualche volta riceve, no? E tu giustamente non ne sei contento, però, come dire, accetti anche questa critica che ti viene rivolta? O sì, ti arrabbi? Diciamo che lì in quella canzone lì ironizzo molto in realtà, poi comunque ho preso riferimento a una canzone che ormai io considero vecchia, nel senso che non fa più parte della mia attitudine all'hip hop, perché ad oggi me ne frego molto di più. Ne sentiamo un'altra adesso, se i ragazzi della regia sono pronti, proporrei Il King. Oh, con i tuoi amici, tu fai questo, fai quello, mi spiace bello, ma King è mio papà, le sette crepe nel cervello, lo senti dire che da mio fratello, King è mio papà, la fama mi precede in centro, lo vedi quello, il figlio di Sergio, King è mio papà, conosco tante persone che ci stanno dentro, con te mi diverto, ma King è mio papà. Si capisce molto bene appunto che in questa canzone Amis parli di tuo papà, del tuo rapporto con lui, più un amico che una figura paterna tradizionale. Oggi cosa ci racconteresti di lui? Ma è niente di più di quello che c'è scritto nel libro, cioè non mi va neanche di svelare completamente la sorpresa, perché poi in realtà è uno dei punti certo. Del libro. Chi ha letto il libro mi ha detto che comunque sono le parti che risultano poi le più comiche, le più commoventi, le più interessanti, no? Mio padre comunque, diciamo che se dovessi fare una scheda tecnica, fa abbastanza ABC, era comunque un musicista, un personaggio estoso, appunto comunque con problemi, se vogliamo, di salute a livello psicologico, che comunque appunto è stato un amico, una persona che comunque mi ha dato molto, e soprattutto ad oggi mi sento dire che devo molto a lui se comunque ho scelto la strada da musicista da percorrere, non quella magari più tradizionale, certo, che può scegliere un ragazzo. Senti, tu ci dicevi prima che il peggiore è, la consideri ormai una canzone vecchia che appartiene ad un altro momento appunto della tua carriera artistica. Leggevo in un'intervista che hai rilasciato qualche tempo fa per Il Fatto Quotidiano che dici di cercare di fare pezzi di natura diversa, di muoverti in molti ambiti. Dici, quali sono in questo momento i temi al centro del tuo interesse? Ma guarda, in realtà in questo preciso momento non sto scrivendo un album, sono nella fase di studio, diciamo, no? Che attraverso prima di scrivere un disco, quindi sto leggendo comunque dei libri, sto guardando dei film, quando ho tempo e se posso cercherò di viaggiare, diciamo che comunque penso di dover ampliare le mie conoscenze a livello sociale, no? Più che emotivo, perché ho scritto un sacco di dischi emotivi che parlassero comunque di me, di tutto il mio mondo introspettivo, no? Penso che è arrivato il momento, magari, poi non so se succederà, però di parlare anche un po' di sociale, che non necessariamente politica. Ecco, allora, vediamo se il tema che ti propongo adesso tu lo consideri sotto la sfera sociale, visto che in questi ultimi tempi ha preso anche una piega politica molto forte. Quando vedi in TV che si parla, per esempio, di Milano, della provincia o della periferia milanese, come quell'area dove si registra in questo momento un forte disagio sociale, come tu sai c'è tutta la questione delle case occupate, no? Dal punto di vista abusivo, molti immigrati che sono qua in maniera non regolare, che vengono anche contestati dalla... c'è un disagio in questo momento abbastanza forte per Milano. Che ti dice il cuore di fronte a questo? Ma che purtroppo la situazione è sfuggita un po' di mano negli anni, purtroppo non si può fare di tutta l'erba un fascio, non si può dire che tutti gli immigrati vengano qui a creare dei disturbi, dei casini. Il problema è che le persone disoneste esistono a prescindere dalla loro etnia, no? Ci sono un sacco di italiani disonesti. Indubbiamente in un momento di crisi come questo, dove l'Italia non è capace nemmeno di badare a se stessa, è normale che il popolo sia teso nei confronti delle altre etnie, perché per ignoranza o per altro un italiano giustamente medio dice già c'ho i miei problemi, insomma, no? Poi tutto questo viene alimentato anche da quello che poi viene trasmesso dai giornali, dai politici, cioè per esempio Salvini, che è un politico che tratta queste cose, non penso che faccia del bene al popolo, perché di fatto agita gli italiani, no? Cioè aumenta la tensione, solo per le robe che scrive su Facebook fa venire il nervoso la gente, però di fatto poi non è che va a risolvere i problemi, secondo me, quindi bisognerebbe un pochino abbassare i toni anche, ritieni? Ma su certi temi? Io direi da tutti e due i lati, capisci cosa voglio dire? Cioè io mi ritengo da sempre apolitico, no? Non sono schierato da nessuna parte, però quello che vedo è comunque effettivamente delle maniere piuttosto accese da parte sia della sinistra che appunto di chi sostiene Salvini e via dicendo, no? Però insomma, come si fa a mettervi tutti d'accordo, no? Voglio dire, è difficilissimo, certo. Mondo, capito? Quando poi c'è la crisi economica, chiaramente tutti sono... E tutti danno di matto, cioè certo. La gente diventa individualista, capisci? Ognuno comincia a fregarsene abbastanza del prossimo, di pensare in gruppo, ognuno pensa per sé comunque, no? Pensa a salvarsi in tempo. E in questo momento comunque storico e negativo l'Italia sta affondando e di conseguenza c'è tanta rabbia, tanto rancore, tanta intolleranza da parte di tutti. Questo secondo me è un po' quello. Potremmo davvero ascoltarti ancora a lungo, ma per andare verso la conclusione ti faccio sentire una cosa, adesso vediamo se riesco a farti arrabbiare. Stasera c'è delirio al Maracanã. ti piaccia o no, Emis, noi continuiamo ancora a cantarla. Ci mancherebbe, speriamo, dai. Allora, la tua canzone certamente... non vorremmo dire più famosa, certamente più popolare, quella che ci rimane di più nell'orecchio di tutte le altre che hai composto in questi anni e che hai realizzato appunto a beneficio del grande pubblico, la colonna sonora del Mondiale di Calcio in Brasile, è un po' come la tua biografia, no? La canzone di tanti ragazzi di periferia che tentano il riscatto, quindi dietro ad una musichetta popolare molto orecchiabile in realtà c'è molto altro. Comunque, anche se ti scoccia un po' essere sempre associata a questa canzone, c'è tanto di te qua dentro. Sì, assolutamente, ma in realtà non è che mi scoccia essere associato a questa canzone, mi scoccia essere accomunato solo, neanche, non la stiamo neanche dicendo tutta per com'è in realtà, quello che ho detto io è non voglio che in futuro mi si accomuni soltanto a questa canzone, però per il momento è normale che sia così, sono contento del successo che ha avuto Maracanã, del fatto che sia diventata molto popolare, comunque è l'unica vera hit, se parliamo proprio di hit radiofoniche che ho fatto fino ad ora, no? Quindi in realtà mi ha portato molto, mi ha permesso di, insomma, di vendere ancora molti dischi, di suonare tanto in giro, di avere altre esperienze, cioè quindi in realtà è un pezzo a cui devo tanto, ci sono affezionato, spero che sia soltanto una parentesi del mio percorso artistico e che me lo ricordi sorridendo anche tra diversi anni. Allora Emi, se noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo intanto per il libro, che sono sicura già stia andando molto bene, poi ma tu hai più o meno tatuaggi di Fedez? Meno, Fedez è più tatuato. Vuoi recuperare? Vuoi recuperare? No, diciamo che lui già ai tempi, quando eravamo ragazzi, ci conosciamo comunque da tanti anni, era già un tatuato, no? Quindi diciamo che lui si è portato avanti negli anni, però chissà, io comunque sono più o meno le stesse, cioè abbiamo la stessa attitudine al tatuaggio, quindi quando saremo vecchi penso che saremo entrambi pieni da far schifo, come si dice, no? Grazie ad Emi Schilla per essere stato con noi, mandiamo un grande abbraccio e naturalmente in bocca al lupo per tutto, per la tua musica, per il tuo impegno, per le tue parole, per il tuo lavoro. Grazie mille, buon lavoro. Grazie, ciao. Il sabato del villaggio. Sabato del villaggio si avvia verso la conclusione, ultimi 15 minuti insieme. Allora, giovedì scorso a Milano si è tenuta la terza edizione di Women's Circle, l'evento annuale di raccolta fondi di Oxfam Italia per combattere la fame nel mondo. Una serata promossa da The Circle, è il gruppo fondato nel 2008 a Londra da Annie Lennox e lanciato in Italia da Antonella Antonelli e Livia Firth, che come sapete è la fortunata moglie di Colin Firth, ambasciatrice globale di Oxfam. Il nostro Nicola Scevola intervistato Marika Iane, cantante e ambasciatrice di Oxfam Italia. Sentiamola. Più che aver appoggiato questa serata, mi sono fatta adottare da Oxfam, che è una grandissima associazione non governativa che è in grado di intervenire su più fronti, quindi oltre che quello dell'emergenza, molto spesso, anzi soprattutto, si occupa di costruire il futuro attraverso una dignità maggiore già nel presente e attraverso quello che c'è proprio intorno a noi, insomma. E mi sembrava così positivo e lungimirante come progetto che non poteva che rappresentare in qualche modo quello che è il mio modo di vedere la vita. Perché tu sei, se non sbaglio, ambasciatrice di Oxfam Italia, vero? Sì, molto orgogliosamente ambasciatrice. Che cosa che questo ruolo di solito ti comporta a fare serate come questa e che altro? Ma in realtà, guarda, le serate come queste sono veramente l'ultima parte, perché ci sono tante di quelle personalità interessanti questa sera che io sono veramente una goccia nel mare. Quello quello a cui porta essere ambasciatori di un piano, di un progetto, è il fatto di poter guardare il mondo in un modo un po' diverso, più ampio, quindi poter contagiare o informare le persone di ogni informazione in più che sia, in qualche modo poter agire più concretamente, no? Diventi parte di qualcosa, secondo me è molto bello e gratificante. Ecco, parlami un pochettino di questo ruolo che, in quanto artisti di una certa fama, ovviamente questa fama porta con sé una capacità di comunicazione, diventate delle specie di casse di risonanza a volte. Come tu usi questo potere e che cosa questo potere ti dà in generale? Diciamo che quello che a me piace come idea non è tanto quello di poter far risuonare un messaggio, ma quello di poter magari dare un minimo di buon esempio, no? E credo che sia un dovere morale a un certo punto, nel senso che se hai tante persone che ti ascoltano insomma, lo so, è la più grande delle banalità, però è appunto un dovere morale fare in modo che di 100 cose che arrivano loro ogni giorno almeno uno di questi impulsi sia positivo o insomma volenteroso di portare a qualcosa di positivo. E ci sono spesso eventi in cui più artisti si mettono insieme, fanno cose, tu sei una promotrice di questo genere di cose o sei più un, diciamo, battitore libero che ti piace portare avanti le tue cose singolarmente? Ma sai, succede che a volte magari ci siano delle situazioni appunto più d'emergenza, dove penso al terremoto in Abruzzo, dove nel giro di 24 ore è stata realizzata una produzione musicale pazzesca ed eravamo lì, io ero poi tra la più giovane, no, l'ultima arrivata, quindi vedevo quanto comunque la forza di tanti artisti insieme potesse far ottenere un risultato immenso e immediato, e quindi credo che quello sia un tipo di lavoro estremamente diverso e molto, molto bello appunto vedere che la reazione della gente c'è sempre. Però quello che a me piace pensare è proprio di abbracciare una causa e portarla avanti più a lungo, perché altrimenti non sei neanche credibile, se vuoi, no? Se poi ovviamente sono dei massimi sistemi per cui dei principi per cui saresti Erode, no? Se ti ponessi, no, in una posizione contraria, penso ai diritti dell'infanzia, eccetera. Però poi secondo me, visto che siamo tanti e tutti abbiamo voce, allora è meglio scegliere qualcosa in cui si vuole operare nel miglior modo possibile. Parliamo un secondo della tua invece carriera musicale, a che cosa stai lavorando al momento? Sto lavorando a un disco nuovo, il mio quarto disco di inediti, e sono veramente veramente felice, devo dire. Poi di solito questa è l'anticamera dell'apocalisse, però devo dire che sono veramente molto entusiasta, non vedo l'ora di poterlo fare sentire a tutti. Ci ritrovate in diretta, allora stiamo andando verso la chiusura di questo pomeriggio trascorso insieme, io spero che lo abbiate trascorso serenamente, spero di non avervi fatto sentire eccessivamente la mancanza di Marta Cagnola, che comunque a noi è mancata moltissimo, perché lei è un vero e proprio database di tutte queste notizie, di informazioni nel mondo della cultura, appunto degli spettacoli, dell'intrattenimento, per cui abbiamo fatto il nostro meglio, cara Marta. Abbiamo sentito poco fa l'intervista a Marika Ayane, appunto come avete ascoltato dalle parole rilasciate al nostro Nicola Scevo, l'ambasciatrice di Oxfam Italia. Sono tantissimi gli artisti impegnati in iniziative di solidarietà, in campagne appunto di promozione umana, insomma chiamiamola come vogliamo, e peraltro sono anche molte le iniziative che si stanno tentando di organizzare. È già stata, come sapete, realizzata la partita di calcio per raccogliere fondi per la rimessa in sesto di Genova. Adesso a quanto pare anche dei cantanti stanno tentando di allestire, di organizzare un concerto benefico per le vittime del maltempo in Liguria. Cristiano De Andrea ha annunciato addirittura di scrivere un pezzo apposito e 6 mesi fa ha scritto addirittura una canzone su Genova, una canzone che sarà appunto nel suo nuovo album, non ancora uscito, per cui tanto fermento, tante cose da fare. D'altronde, come ricorderete, anche con Amiche per l'Abruzzo, ma non solo, insomma, quando si tratta di sostenere qualche campagna e aiutare per iniziative di solidarietà, gli artisti si cimentano sempre in tutto questo molto volentieri. Addirittura, come diceva Marika Ayane, appunto noi artisti ci facciamo adottare da queste cause, e d'altronde appunto con la visibilità che hanno, con i nomi che hanno, è anche giusto che si facciano loro stessi portavoce appunto di queste iniziative, di queste campagne. Io direi che a questo punto, ve lo dico, avremmo dovuto avere un ospite d'eccezione per concludere in bellezza questa trasmissione, però ci sono dei problemi appunto telefonici e non riusciamo a collegarci, per cui facciamo una cosa che non vi dico neanche chi è, così magari Marta lo recupera se vorrà la prossima settimana. È proprio un inghippo di natura telefonica che in questo momento ci sta ostacolando la serena chiusura del nostro programma. Però insomma abbiamo parlato di tante cose, di serie televisive peraltro ne abbiamo citate pochissime, dopodiché voi vi siete siete letteralmente scatenati e ci avete tutti quanti raccontato la vostra preferita. Qualcuno sostiene anche che però ci sia un po' troppa violenza in televisione e accusa anche alcune serie di essere un po' troppo spinte appunto in questo senso. Qualcuno, come un'ascoltatrice, Carmen, racconta che per le serie non italiane detesta il doppiaggio, preferisce i sottotitoli, ed effettivamente Carmen è una modalità che in molti suoi sostenitori appunto delle serie preferiscono, anche proprio per imparare la lingua, per cui ha ragione anche in questa osservazione. C'è chi ha commentato, anche così chiudo raccontando un po' le osservazioni che avete fatto, ha commentato il tema dei consumi, la grande distribuzione e la differenza appunto con gli hard discount e quindi le private label. Vedo che state commentando un po' tutto, io direi che a questo punto mi posso solo avviare verso il commento della conclusione del nostro programma, che è stato ricco. Io ringrazio moltissimo Christian Goldoni, che mi ha aiutato tra ieri e oggi ad allestire una trasmissione che naturalmente non mi è, come sapete, non è la mia, per cui spero di aver fatto bene lo stesso. Saluto con affetto Marta Cagnola, che la settimana prossima ritornerà con voi con tantissime cose interessanti da raccontarvi, con tutti i colleghi anche della redazione che aiutano a mettere in piedi questo programma. Ringrazio Gianmarco Ferronato per l'assistenza tecnica, tra ieri e oggi è praticamente stato sempre con me. E che cosa ci manca da ringraziare? Ah, ecco, certo, molto importante, dopo il giornale radio c'è l'appuntamento con Daniele Bellasio e Radio YouTube, tutte le notizie che arrivano dalla rete e le notizie della rete. Direi che a questo punto non ho più altro da dire, vi auguro un buon proseguimento di sabato, una buona domenica, io ritorno in diretta lunedì.